e denari. Cuore Denari ritorna in diretta con voi per parlare come ogni giovedì nella seconda parte della puntata di Mercati a Risparmio. Investire informati. È sempre con noi Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. Nella prima parte di Investire Informati, prima del GR, abbiamo già iniziato a commentare la situazione dei mercati di questi giorni. Abbiamo fatto già un piccolo focus sulla Grecia, anche se è una situazione talmente fluida che ogni commento è già praticamente vecchissimo, quello che abbiamo già fatto è tramontato. 800 24 00 24, però continuate a tenere bene a mente il numero verde per le vostre domande. Se siete in procinto magari di fare un confronto prossimamente con un consulente finanziario, volete andare da lui con una buona serie di domande, con le domande giuste soprattutto, magari così confrontatevi con noi e vediamo se Vittorio Gaudio può supportarci con questo. Ma avevamo preannunciato il grande capitolo dell'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato delle ultime due settimane. Allora, invece che ribadire io tutto il concetto, sa che faccio, Gaudio? Lo faccio fare a Francesco da Napoli, il nostro primo ascoltatore di oggi. Francesco, benvenuto. Salve, buongiorno. Buongiorno. È una domanda per il vostro interlocutore proprio riguardo a questo argomento. Sì. Chiedevo come mai c'è questa anomalia dell'aumento dei tassi di interesse, diciamo, dei titoli di Stato e quindi dell'abbassamento poi dei corsi del prezzo, nonostante questa grossissima quantità di acquisto che la BCE sta facendo, di 60 miliardi al mese, proprio sul secondario, e quindi diciamo i prezzi dovrebbero essere aumentati. Continuare a schiacciarli ancora, Francesco. Esattamente, mentre invece sta accadendo un incontrario, quindi in maniera inaspettata. Allora, grazie. Francesco, un pochino già qualche anticipazione l'abbiamo data. Infatti, prima. In realtà si era un po' sparsa, si era propagata sul mercato la notizia che potesse essere interrotto in via anticipata questo programma di quantitative easing, perché qualche segnale economico forse lo suggeriva, quindi Mario Draghi forse l'ha fatto al Fondo Monetario Internazionale, certo, qualche giorno fa, ha detto no, scordatevelo, noi andiamo avanti almeno fino a settembre 2016. E poi Coeré, appunto, con questo intervento che abbiamo richiamato prima, ha detto attenzione che noi sul mercato ci siamo, anzi addirittura anticipiamo questi acquisti prima dell'estate, proprio perché la pausa estiva potrebbe essere una pausa di, come dire, liquidità più rarefatta sui mercati, quindi se vogliamo acquistare, visto che noi sui mercati ci siamo, preferiamo farlo prima. La domanda è molto, molto ben posta, però ecco, teniamo conto prima di tutto della dimensione dei mercati obbligazionari, che sono mercati molto importanti, e se guardiamo anche quello che è accaduto sui derivati dei tassi di interesse, che sono uno dei mercati più liquidi in assoluto, ecco, pensate che anche questi 60 miliardi, che sono comunque cifre decisamente considerevoli, però si devono raffrontare con una dimensione del mercato molto, molto vasta. Poi, come dicevamo forse anche in un'altra occasione, i rendimenti a cui erano arrivati ad esempio i Bund tedeschi erano rendimenti oggettivamente troppo bassi, quindi probabilmente incompatibili con quello che è anche uno scenario economico. Esatto. Ecco, teniamo conto che l'inflazione attesa in questo momento in Germania è sopra l'1%, quindi dei rendimenti vicino allo zero erano incompatibili. Quindi è una reazione che, se vogliamo, è anche un po' tirare la giacca alla BCE. Fammi capire da parte degli investitori, da parte del mercato, quant'è realmente il tuo, come dicono gli inglesi, commitment, no? Impegno a intervenire sui mercati. E in qualche modo, se vediamo la corrispondenza di questi eventi sui mercati e le dichiarazioni di Coeré, si fa capire agli investitori che effettivamente l'impegno della BCE è molto forte, molto solido, duraturo nel tempo. Whatever it takes, dobbiamo richiamare la frase di Mario Draghi al Parlamento inglese di 3 anni fa, quando promise, di fronte a quella crisi dirompente di quel momento, noi faremo tutto quello che è necessario fare per salvare l'Eurozona. Allora, dottor Gaudio, però c'è un altro elemento molto interessante. Le borse sui massimi. Tokyo stamattina ha ritoccato il suo record da 15 anni a questa parte. Sui suoi massimi di sempre la borsa americana, lo sono anche alcuni indici europei. Ma come mai sono così robusti i mercati azionari? È sempre merito di tutta la liquidità che c'è in circolazione? Gli investitori continuano a girarla sull'equity, come si dice in inglese, quindi sulle azioni? O anche qua dobbiamo dare un'altra chiave di lettura? Beh, certamente se guardiamo la borsa americana è per certi versi sorprendente la resilienza. Ecco, qui possiamo veramente richiamarci all'argomento di prima, perché se c'è una borsa resiliente tra tutte è proprio quella statunitense. Beh, in effetti che cosa accade? Questa grande quantità di denaro che ormai da anni è riversata sul mercato trova nel mercato azionario una diciamo, un approdo che per certi versi è più sicuro. Può sembrare paradossale perché i rendimenti obbligazionari sono così bassi che quindi evidentemente l'alternativa azionaria rimane un'alternativa assolutamente appetibile. Poi c'è anche un altro piccolo paradosso che forse i nostri amici risparmiatori, chi ci ascolta, può diciamo valorizzare in pieno: il fatto che proprio alcuni dati che sono usciti negli Stati Uniti ultimamente, non fortissimi, probabilmente stanno allontanando di qualche mese il momento in cui la Fed prima o poi rialzerà i tassi, e questo certamente alla borsa piace. Quindi tutti questi fattori, il fatto che ad esempio tante aziende americane, come mi rifaccio sempre al caso americano, sono ricche di liquidità e con i soldi che hanno riacquistano le azioni, questi famosi buyback. E quindi tutto questo fa bene alla borsa. E tra l'altro c'è anche un altro tema sempre un po' legato alla resilienza. La borsa americana è cresciuta molto negli ultimi tempi perché c'è stata questa incredibile rivoluzione industriale legata allo shale gas, allo shale oil che abbiamo raccontato. In questo momento in realtà molte aziende di quel comparto stanno fallendo, però anche lì un altro segnale di grande flessibilità del mercato americano. Non c'è questo impatto così drammatico da queste notizie, ci si riconverte rapidamente, non è detto che il petrolio possa, anche se poi riaprire i pozzi petroliferi e farli ritornare in attività non è banale, però insomma osserviamo anche là questo atteggiamento di grande flessibilità che il mercato americano ha. È un sistema industriale molto diverso dal nostro. Questo lo sappiamo da tempo. Senta, le faccio una domanda che ci scrive Franco al 349-238-6666, ma che è in realtà un po' un dubbio, una piccola preoccupazione che forse in molti hanno. Vabbè, i prezzi delle obbligazioni sono così bassi, il sussulto delle ultime settimane ci stava, però sono ancora a livelli bassissimi. Il mercato azionario è molto alto, ma forse gliel'ho già chiesto in qualche altra puntata, ma vale la pena ritornare a commentare la possibilità che ci sia qualche bolla che si annida da qualche parte. Di fatto siamo in bolla su qualche settore, ma ci dobbiamo preoccupare. Quando dovremo intercettare quel segnale in cui un supereroe potrebbe dire, appunto, scateno l'inferno? Scoppierà qualcosa prima o poi, dottor Gaudio? Ma guardi, io credo che se c'è stato o se c'è tuttora una situazione di bolla, a mio parere in alcuni mercati governativi probabilmente non siamo lontani da questa definizione. Ecco, quando abbiamo visto qualche settimana fa appunto i bund a 10 anni vicino allo zero, è chiaro che lì qualche elemento della classica bolla finanziaria la potevamo vedere, e poi in qualche modo è stata fatta scoppiare proprio in questi giorni con un ritorno a livelli un pochino più normali, anche se molto bassi. Io non credo che siamo ancora alla fine definitiva del mercato bull sull'obbligazionario, ovvero la partenza del mercato orso sulle obbligazioni. Certamente i livelli minimi che abbiamo visto in questi tempi probabilmente sono i minimi di sempre, quindi ci sarà una fase di assestamento, però prima o poi è chiaro che un rialzo dei rendimenti obbligazionari, soprattutto se l'economia ripartirà, è nelle carte. Ecco, quindi a questo dobbiamo prepararci. Non sarà un processo veloce, nulla di drammatico, non è che dobbiamo correre domani a liquidare le posizioni obbligazionarie. Indubbiamente però certi rendimenti alla fine sono troppo bassi. Certo, però siccome è uno scenario che prima o poi si concretizzerà, Bisognerà essere pronti. Esattamente. Allora, come modifichiamo le nostre strategie di investimento in vista di tutto ciò? Però direi che possiamo anche fare il domandone, dai, è ora. È tempo. Domandone. Allora, se avete seguito con attenzione la prima parte della trasmissione, in realtà l'ha ridetto anche adesso, ecco, brava, sei stata attenta, quasi quasi ti regalo un libro. Allora, vi abbiamo raccontato che una dichiarazione proprio degli ultimi giorni di un esponente molto importante della Banca Centrale Europea ha scaldato la borsa questa settimana. Si tratta esattamente del numero 2 della BCE. Avete preso appunti? Vi ricordate come si chiama? Io l'ho pronunciato da cani perché il francese non è la mia materia. Per cui abbiamo dato un'altra indicazione. Brava. Allora, tra le righe. 800240024. Per darci la risposta, se poi vi ricordate bene, anche più o meno bene, che cosa ha detto, doppio libro. Più generose di così, io non so che cos'altro possiamo fare. Facciamo i test per loro, facciamo concorsi, regaliamo libri, siamo sempre qua, veramente. Allora, dottor Gaudio, peraltro borse sui massimi in questi giorni. A maggio, ogni anno, giochiamo un po' con questo detto: sell in May and go away. Vendi tutto quello che hai a maggio, così te ne vai in vacanza tranquillo. No, sul mercato azionario qualcuno la definisce un po' la profezia che si autoavvera, ma non mi risultano dei mesi di maggio, anche negli anni passati, passati con questi movimenti di uscita dal mercato azionario così? Beh, maggio no, abbiamo avuto delle estati ogni tanto un po' turbolente, ecco, io ricordo anche sì, qualche vacanza mia personale interrotta per questi motivi. Anche le mie, ahimè, glielo assicuro, quindi... che non cercavano gli ospiti sui mercati mentre io ero nelle Marche al mare, quindi passavo numeri di telefono a tutti. Per cui spererei almeno quest'anno che diciamo questo proverbio non si avveri. Ma no, se un assestamento sul mercato azionario dovessimo vederlo, secondo lei su quale settore è necessario che avvenga questo movimento di correzione? Ma prima di tutto ragioniamo se questo assestamento ci può stare. Certamente, voglio dire, se dovessimo avere una fase, secondo me, di turbolenza maggiore sui mercati obbligazionari, ecco, magari anche causate dalle vicende che abbiamo commentato prima, è chiaro che prima o poi anche qualche piccolo scossoncino sulle borse può accadere. Però che fare? Perché poi alla fine uno dice, va bene, lo scossone, e quindi, ecco, io credo che qui dobbiamo sempre tornare alle regole auree, quindi dire, vabbè, porto a casa dei profitti che possono essere importanti dall'inizio dell'anno perché alcune borse hanno fatto bene, ma poi dove li metto? Perché effettivamente io, parlando molto spesso con i clienti, la tentazione ogni tanto di monetizzare viene, però oggettivamente oggi alternative non ce ne sono, perché lei capisce, se io mi metto liquido per qualche mese con dei rendimenti che vedevamo anche ieri sera, il bot a 12 mesi alla fine sta rendendo 0.02, vuol dire che 100.000 euro investiti su un bot a 12 mesi rendono in 12 mesi circa 20 euro una banconota. Quindi lei capisce che a un certo punto anche restare fuori dai mercati può essere magari prudente se uno è eccessivamente esposto, portare a casa appunto un po' di profitti, però diciamo uscire da quella che rimane ad oggi l'asset class per certi versi più interessante, ecco, mi sembra non coerente, soprattutto se un poi un suo collega qualche giorno fa mi ha detto il rischio è di non prendersi alcun rischio. Certo, ma è molto giusto, ha sintetizzato molto meglio di me, che sono più prolisso, quindi no, complimenti per lui, complimenti per lui, però effettivamente è quello che penso che lei io, ci piace così tanto, non dica così. Grazie. Allora, intanto sentirei Giuseppe da Milano e poi vedo già l'800240024 i nostri candidati a dare un'occhiata nella nostra biblioteca. Comunque cominciamo con Giuseppe da Milano, vediamo come possiamo fargli una piccola consulenza questa mattina. Giuseppe, benvenuto. Buongiorno, sono Giuseppe da Milano, grazie per avermi chiamato. Volevo fare una domanda. Sì. State parlando di borsa, ecco, fino a che punto oggi è conveniente investire in borsa? Secondo me è la liquidità che conta in questo momento di crisi, e questo dal mio punto di vista il vero salvadanaio. Voi cosa ne pensate? Grazie Giuseppe. Certo, l'ultima cosa, sì, volevo ringraziarla per una situazione di tempo fa, finalmente la posso fare di persona, si parlava di finanziarie, una di queste era Barclay, grazie mille, si ricorderà adesso. Giuseppe, le abbiamo risolto una situazione, ci fa piacere, adesso il volo non me la ricordo, però l'importante è che si sia risolta serenamente. Tutto bene, quel che finisce. Ottimo. Bene, dai. Allora, Giuseppe dice, perché investire in borsa? In questo momento non è meglio avere della liquidità a disposizione, remunerarla però è molto difficile, poi dipende magari da che cosa ha bisogno di fare Giuseppe, se deve fare magari un investimento familiare nel giro di poco tempo, è chiaro. Beh, che immobilizzare del denaro. Non c'è dubbio, è chiaro che tutto dipende dalle esigenze del risparmiatore, è chiaro che se io so già che tra un mese devo acquistare qualche cosa, un appartamento, il box o un'automobile, evidentemente non mi metto a giocare, tra virgolette, un termine pessimo, in borsa, perché effettivamente non è il caso. Ma quanti hanno effettivamente bisogno di soldi in tempi così rapidi? Quindi alla fine, se io devo investire a zero solo per un eccesso di prudenza, effettivamente ritorniamo al proverbio che è stato citato prima, quindi il vero rischio è proprio quello. Allora io posso dirvi, oggi abbiamo sul mercato azionario, prendiamo il mercato azionario europeo, fior di società che pagano anche per cassettisti, quindi per clienti relativamente prudenti, dei dividendi del 3-4%, quando le stesse aziende si rivolgono al mercato obbligazionario e pagano rendimenti del 0,5-1%, quindi non abbiamo mai visto una differenza tra dividendi e rendimenti rendimenti obbligazionari per la stessa società di queste dimensioni. Quindi oggi la borsa io credo che sia un'alternativa interessante, naturalmente nella prospettiva temporale più corretta, anche per investitori, non voglio dire prudenti o prudentissimi, ma equilibrati, quindi che abbiano un giusto rapporto con il rischio finanziario. Quindi non più gli speculatori, oggi può andare in borsa grazie alla presenza di dividendi così interessanti anche una famiglia media, l'investitore medio che ha naturalmente un po' di anni di fronte a sé, ecco, ma neanche tanti, perché effettivamente i dividendi che ci sono molto ricchi. Senta, prima di sentire le risposte degli ascoltatori, abbiamo pronti Lorenzo da Lodi e Bruno da Firenze, ma se invece il mercato dovesse diventare, come è anche probabile che accada, un po' più volatile, quindi se dovesse avere un movimento un po' meno laterale, come si dice in gergo, ma un po' più a elettrocardiogramma, come invece piacerebbe a Nicoletta, dalla volatilità dei mercati, come ci si protegge, dottor Gaudio? Guardi, l'unico modo, anzi diciamone due, o non la si guarda e quindi effettivamente si sta aderenti a quello che è la propria esigenza temporale. Se io ho bisogno di denari tra 10 anni, la volatilità settimanale non mi interessa. Oppure se in qualche modo la voglio giocare, mi affido a degli esperti. Benissimo. Allora, Lorenzo da Lodi, telegrafico, chi è il numero 2 della BCE? Sì, è Schäuble. No, mi spiace Lorenzo, non è lui, andiamo a Bruno da Firenze. Bruno, chi ha fatto questa dichiarazione che ha sostenuto il mercato azionario a metà settimana, numero 2 della BCE? È Benoît Coeur. Lui la pronuncia ce l'ha molto migliore della mia. Grazie, insomma. Allora... ottimo, e intanto abbiamo terminato anche oggi qua. E domani dove andiamo? Domani siamo a Bologna da Autopromotech. Ieri c'era Sebastiano Barisoni, domani ci siamo noi a parlare di motori, ma vedi un po' tu. Dottor Gaudio, grazie per essere grazie stato tutti, con noi, a presto. Buona giornata a tutti, a domani.